Allora, volevo dire due parole sul prossimo seminario a Baigno, Amore Psiche. Abbiamo scelto questo titolo perché è un mito molto interessante, che viene da una storia raccontata da Apuleio nelle Metamorfosi. È una storia iniziatica, in pratica è un viaggio dell'anima che arriva giù alla psiche, è l'anima che poi attraverso il viaggio all'inferi, poi si ricongiunge con Dio, amore. Beh, la storia è abbastanza articolata, inizia così, nel modo più classico. C'era una volta in una città un re e una regina che avevano tre figlie. L'ultima, Psiche, è bellissima, tanto da suscitare la gelosia di Venere. Sappiamo che gli dei greci erano personificazione delle passioni umane e ciò che i greci temevano era proprio l'aphthonos theon, cioè l'invidia degli dei. Allora, per il semplice fatto di essere bella e bellissima, Venere prova invidia e quindi desidera punirla. E infatti, cosa fa Venere? Prega il dio amore di ispirare alla fanciulla una passione disonorevole per l'uomo più vile della terra, in modo che questa sarà la sua punizione di fronte a tutti. È solo che il dio amore, quando va da Psiche per svolgere il suo compito, il compito che gli aveva dato Venere, si innamora di Psiche, però a sua volta teme Venere, e quindi cosa fa? La rapisce, la porta nel suo palazzo e stipula un patto con lei, la potrà vedere. Soltanto ce lo potrà incontrare tutte le notti, ma senza che lei lo possa mai vedere. Psiche quindi viene isolata nel palazzo, di notte ha degli incontri straordinari col dio amore, però non lo vede mai, e di giorno è sola. Ottiene così dal dio amore di poter far venire al palazzo le sue due sorelle. Le sue due sorelle arrivano e per invidia che fanno le due sorelle? Dicono a Psiche: guarda che tu in realtà stai incontrando un serpente mostruoso. Allora, Psiche, di notte, quando il dio dorme, accende una lanterna per vederlo e si accorge di avere accanto l'uomo più bello del mondo. Solamente che una goccia di olio cade sul corpo del dio, il dio si sveglia e si accorge che per curiositas, la sua bellissima psiche, la sua donna, ha rotto il patto e quindi si allontana, anche per timore delle vendette di Venere. A questo punto Venere se la prenderà con Psiche e la sottopone a tutta una serie di prove durissime, l'ultima delle quali quella di scendere agli inferi. Ancora una volta, per curiositas, Psiche compie un atto che dovrà pagare, di cui dovrà pagare le conseguenze. Tutta questa storia finisce però bene perché Amore viene a salvare Psiche e poi alla fine convince Zeus di poter avere un matrimonio con lei e quindi le cose finiscono tutte bene. Questo racconto è un racconto che ci dice, il senso di questo racconto è il viaggio tormentato dell'anima per poter raggiungere la pace. La pace e l'amore. Ecco, questo racconto cosa ci comunica? Ci comunica un fatto che è sotto gli occhi di tutti, ma che non vogliamo vedere. E cioè che l'idea che spesso abbiamo dell'amore è un'idea falsa. Cioè che l'amore sia qualcosa che si ottiene senza prezzo. No, non è così. L'amore si ottiene grazie a un lavoro personale, talvolta molto profondo. La discesa agli inferi è questo, cioè agli inferi vuol dire discesa nei luoghi più bui, nei luoghi della sofferenza, delle cose più dure che ci possono capitare nella vita. È proprio la capacità di reggere a queste prove che poi può far sì che alla fine le cose si mettano nella giusta direzione. Bene, e questo seminario, prendete lo spunto da Amore e Psiche. In questo seminario lavoreremo sui percorsi che le persone fanno per raggiungere la congiunzione dell'anima con l'amore. E quindi rivedremo i percorsi personali, le difficoltà che ognuno incontra nella propria vita e anche perché nella propria vita ognuno di noi mette inquinanti, quelli che abbiamo visto nella storia, la curiositas, ma cioè, la tracotanza, l'invidia, la gelosia, ecco, sono tutte quelle passioni, l'egoismo, tutte quelle passioni che rendono impossibile all'anima ricongiungersi all'amore.